La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon venerdì 11 di marzo, siamo in diretta alle 16.31, primi 15 secondi qui da studio di Milano. Oscar Giannino vi ringrazia e vi saluta per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e ora vi farò una domanda. Per intervenire l'800240024 per l'opinione di 349-238-6666. La domanda, per quanto possa sembrarvi, prima di capire che di questo parliamo in trasmissione, è esplicita e si rivolge a chi ha in famiglia o è direttamente, nel caso, eventualmente colpito da una epatite C. Perché vi faccio una domanda? Vi faccio una domanda per, se ve la sentite, per intervenire. Tutelerò in maniera assoluta nel caso il vostro anonimato, quindi non dico né da dove chiamate né come vi chiamate, anche se sapete che poi al nostro centralino dovete lasciarlo detto, ma non lo dico in diretta, perché noi ci occupiamo proprio di questo grande tema, che è un tema che ovviamente crea enormi interrogativi, a maggior ragione a me che sono sostenitore del libero mercato, e che è relativo al fatto che nel nostro paese, per questa patologia che è causa di morte per, come ordine di grandezza, 10.000 italiani l'anno, ed è una patologia per la quale il principio attivo, la molecola farmacologica che è necessaria per trattarla, il Sofosbuvir, ha un costo elevatissimo. Cioè stiamo parlando di quasi 40.000 euro a trattamento. Allora, il costo elevatissimo di questo farmaco prodotto da una multinazionale americana crea un enorme problema a chi come me per il libero mercato, perché ovviamente noi stiamo parlando di una patologia a causa di morte per la quale il Servizio Sanitario Nazionale deve, questo è il verbo servire, non un altro da usare, deve mettere a disposizione il farmaco per chi ha questa patologia. Il problema è che il prezzo di questo farmaco è tale che anche la convenzione firmata con il produttore dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, in realtà ci consente un approvvigionamento che non, purtroppo, non rende possibile la disponibilità del farmaco a tutti coloro che hanno l'epatite C nel nostro paese. E quindi è un dramma serio, perché mette in discussione i principi della generalità del Servizio Sanitario Nazionale, a fronte di un prezzo molto elevato, perché la ricerca e il brevetto del farmaco è stata effettuata e quindi registrata dalla multinazionale americana, e la domanda diventa: che cosa bisogna fare in queste condizioni? Quindi, se volete telefonarci e dirci che problemi incontrate per questo, ripeto, io garantisco la più totale vostra tutela all'anonimato, ma diteci che problemi avete e come li state affrontando. In generale può intervenire chiunque, però ci dice bisogna fare qualunque sforzo finanziario per approvvigionarsi di tutta la quantità necessaria del farmaco, però ripeto, stiamo parlando di somme molto molto ingenti. Perché ne parliamo? Perché anticipiamo questo tema che verrà approfondito domenica sera, per me imperdibile, ma io lo dico spessissimo di questa trasmissione, perché domenica sera su Rai 3 è presa diretta la trasmissione di Riccardo Iacona e della sua squadra. Dedicherà metà della sua puntata proprio a questa emergenza e lo farà con una serie di inchieste che sono con una serie di interviste che sono, alcune di loro sono del tutto in prima mondiale, per esempio quella con i vertici della multinazionale americana, intorno ai cui costi e ai cui prezzi c'è, pensate, anche in corso un pezzo del dibattito dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti, che fino a questo momento i vertici di questa azienda non hanno risposto alle accuse pesanti che si sono sollevate nel Senato degli Stati Uniti. Eppure la squadra di presa diretta che va in onda su Rai 3 domenica sera è riuscita a intervistarla, e daranno voce ai malati, all'AIFA, cioè a tutto l'insieme della verticale di interessi, quelli istituzionali e quelli dei pazienti e dei familiari dei pazienti, che sono colpiti da questo enorme problema. E io sono molto felice che ci abbiano chiesto di anticipare questo tema, perché questo secondo me è davvero un tema di quelli di servizio pubblico, perché sono interrogativi e problemi serissimi che devastano la vita, purtroppo, e le possibilità di sopravvivenza di migliaia e migliaia di italiani. Allora, abbiamo con noi per parlarne due ospiti. Intanto ci abbiamo appunto il giornalista di Presa Diretta di Rai 3, Danilo Procaccianti, che ha realizzato alcune delle interviste e dell'inchiesta. Io ricordo che a Presa Diretta, oltre a Iacono, partecipano e collaborano Alessandro Macina, Danilo Procaccianti, Fabrizio Lazzaretti, Massimiliano Torchia, Marina Del Vecchio. Intanto grazie a Procaccianti di essere con noi. Allora, ciao Oscar, grazie a te, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Ci spieghi come funziona la vostra inchiesta e quali sono gli elementi più rilevanti che mettete in luce? Dunque, noi ci siamo posti il problema, appunto, come dicevi tu, che per la prima volta, insomma, nella storia del sistema sanitario nazionale si è dovuto decidere, cioè di fronte a una platea di malati di epatite C, qualcuno ha dovuto dire a te sì, a te no, perché, insomma, questo farmaco, come tu anticipavi, costa moltissimo. L'altra cosa storica è che è un farmaco che guarisce, cioè qualcuno l'ha paragonato alla scoperta della penicillina, cioè i medici dicono ci troviamo di fronte a queste cose poche volte nella storia, per cui appunto abbiamo sentito le persone, i malati che non hanno diritto a questo farmaco e chi ha fatto dei mutui, chi ha fatto dei prestiti per comprarselo di tasca propria. E soprattutto ci siamo posti la domanda: ma perché costa così tanto questo farmaco? E quindi siamo andati negli Stati Uniti a cercare di capire. Io voglio ricordare a chi è in ascolto, ma non è, per così dire, colpito per sua fortuna da questo male, che in Europa si muore più di epatite C che di AIDS, cioè stiamo parlando di una patologia mortale che è ancora troppo estesa, tanto è vero che è stato lanciato proprio poche settimane fa, il 17 febbraio scorso, un manifesto europeo per l'eliminazione dell'epatite C, promosso da tutti i ricercatori di prima fila del settore, tutta Europa, anche italiani come Massimiliano Colombo, Antonio Craxi di Palermo e così via. Cioè è una vera e propria emergenza. La stima è che a oggi correttamente ci siano 15 milioni di europei con un'infezione cronica al fegato da HCV, appunto l'epatite C, e solo il 20% di questi riceve un trattamento. In Italia la stima è di circa 250-300.000 persone malate, anche se c'è una forbice di stima più bassa che parte da 160.000. E purtroppo, Danilo, qui stiamo parlando di dosi di farmaco per trattamenti con numeri molto molto inferiori acquisiti dall'Italia. Sì, al momento, insomma, dati ufficiali dell'AIFA, siamo riusciti a dare il trattamento a circa 35.000 pazienti in Italia. Su un numero incerto, appunto tu parlavi di 160-200.000, sono uscite varie cifre. Sì, queste sono le stime che ho preso dal manifesto lanciato appunto il 17 febbraio. Sì, la notizia è però che potrebbero essere quattro volte di più. Esatto. Non lo diciamo noi, ma ce l'ha detto il direttore dell'AIFA, Luca Pani, che appunto contratta i prezzi con le case farmaceutiche. Lui ci dice è un dato che non sappiamo, e già questo secondo me è grave, che non ci sia un registro nazionale di malati di epatite C, e lui ci dice quello che sappiamo è che di solito il numero dei malati è quattro volte il numero conosciuto, per cui se sono 200.000 potrebbero essere 800.000, perché quattro volte tanto sono quelli che non sanno di averlo, per cui stiamo parlando di cifre altissime. Di cifre altissime. Ma quando tu hai esordito dicendo si pone per la prima volta, visto il prezzo di questo farmaco, il problema di decidere a chi darlo e a chi no, come funziona? Chi decide a chi darlo e a chi no? Decide l'AIFA, lo ha deciso con una commissione medica, per cui comunque ci sono anche dei medici che decidono, e diciamo ha fatto una scelta di buon senso. Insomma, su questo dobbiamo essere laici, nel senso che dicono lo diamo prima ai più gravi. Il problema è che questa scelta scontenta un po' tutti, scontenta i medici perché dicono dal punto di vista clinico sarebbe ancora più importante guarire quelli che sono meno gravi. perché insomma non dobbiamo farli aggravare prima di guarirli. È scontento ovviamente i pazienti che hanno un virus, anche se non hanno ancora la malattia del fegato. Sfido chiunque a stare tranquillo con un virus in corpo sapendo che esiste una malattia che può sconfiggere questo virus, che è una questione anche psicologica, insomma tu vai in giro sapendo che hai un virus in corpo. Allora, noi abbiamo collegato con noi anche il presidente dell'associazione Onlus Epacie, appunto Epatite C, Ivan Gardini, che è parte attiva da tempo, è interfacciata con le istituzioni, cioè con i NAS, con l'AIFA, con il Ministero della Salute, per la segnalazione più attiva e tempestiva possibile di tutti i casi segnalati e segnalabili in cui si verifica appunto l'impedito accesso a questo nuovo farmaco salvavita. Buon pomeriggio e grazie Gardini di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Allora, voi che dite del criterio assunto che ci ricordava adesso Danilo Procaccianti di decidere di darlo, stante la quantità limitata in relazione al prezzo del farmaco, solo a chi è nelle fasi avanzate della patologia? Beh, allora noi possiamo dire questo. Premesso che noi siamo stati invitati a questa famosa commissione che poi ha deciso quali erano i criteri, e in quel momento lì c'erano tutti i presupposti per effettivamente porre dei criteri di accesso, perché le persone con malattia avanzata e avanzatissima erano talmente tanti che una persona con una malattia lieve non sarebbe stata curata comunque per motivi etici di dare precedenza ovviamente a chi si sta giocando la vita in buona sostanza. E naturalmente nel corso dell'anno i pazienti che non possono avere accesso alle terapie hanno iniziato a protestare, ovviamente, perché questo crea un malessere, perché tu dici a una persona: io non ti posso dare i farmaci a tempo indeterminato, perché questo è il vero problema. Perché se a un paziente gli viene detto: io non te lo posso dare subito, ma te lo do, non so, tra un annetto, c'è una lista di attesa, sei il numero 121 per dire, quella persona si mette tranquilla perché sa che prima o poi arriva il suo turno, ma qui si sta dicendo a tempo indeterminato non te li do, e questo crea un problema, crea un disagio, e quindi abbiamo queste persone che prendono, partono, vanno in India, si comprano questi farmaci generici, chi con un razionale, chi con meno razionale, e poi si sviluppano tutta un'altra serie di anomalie. E questo noi l'abbiamo spiegato, insomma, lo stiamo spiegando, è qualcosa che va sistemato, va gestito. Voi li avete anche intervistati, Danilo, domenica sera manderete in onda anche le interviste a questi pazienti che per non aspettare prendono l'aereo e vanno in altri continenti a procacciarsi. Sì, ne abbiamo intervistati, perché in India funziona in questo modo. Storicamente l'India respinge spesso e volentieri i brevetti e le multinazionali del farmaco, cioè dice: o è un farmaco altissimamente innovativo, oppure insomma il brevetto te lo scordi qua, e quindi le nostre aziende farmaceutiche che producono generici lo copiano e lo vendono a prezzi assolutamente accessibili. In questo caso la multinazionale, per prevenire tutto questo, la multinazionale americana ha fatto degli accordi di licenza, cioè ha concesso in licenza a determinate aziende farmaceutiche indiane la possibilità di produrre i farmaci generici, comunque prendendo delle royalties, però insomma il prezzo di vendita è notevolmente più basso, insomma si parla di 700 euro a trattamento, insomma, per le persone che abbiamo. E addirittura adesso è in discussione il brevetto, proprio in questi giorni, per cui se l'India respinge ufficialmente questo brevetto, insomma ci saranno anche tutte le altre aziende produttrici di generici, anche quelle che non hanno sottoscritto accordi con la multinazionale, che potranno produrre il farmaco addirittura a prezzi ancora inferiori. Beh, certo, però, che non si può dire a migliaia e migliaia di italiani malati: prendete l'aereo e andate in India, quindi siamo, il problema resta irrisolto. Ci sono, vedo, un po' di ascoltatori, iniziamo con la prima, io non dico il nome, non dirò da dove chiama, la prima ascoltatrice se me l'ha passata sulla linea 3, allora, è collegata? Non lo so. Sì, è collegata, glielo dico io. No, è perché evito il nome, così è. Allora, nel suo caso cos'è, un familiare o è lei? No, no, sono io e l'ho contratta diversi anni fa quando ci fu lo scandalo Poggiolini, la Sì. storia del sangue infetto, eccetera. E io sto facendo la cura, diciamo, ecco, sono proprio gli ultimi giorni. Avevo, diciamo, una perplessità perché siccome ci sono due tipi di cura, una con 7-8 pillole al giorno e una con una pillola sola. E mi avevano detto che mi facevano quella con una pillola, poi invece sono arrivata lì e mi hanno dato queste 8 pillole che sembra che stiano funzionando e speriamo bene, diciamo, poi quando farò i controlli vedremo. Però ecco, la cosa che mi ha lasciato perplessa è stata la risposta quando ho detto perché 8 pillole e non una, e mi è stata risposta non me l'hanno autorizzata, in base a che cosa non si sa. E quindi niente, io penso di essere tutto sommato fortunata, però non è bello, ecco, sentirti rispondere così in questo modo. Boh, non me Sentiamo l'hanno autorizzata, un non so di commento che diretto. cosa, Sentiamo perché e per come. su questa prima telefonata un commento diretto da Ivan Gardini, però prima abbiamo il minuto sull'informazione del traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, ci stiamo occupando tramite l'anticipazione di uno dei temi a cui si sarà dedicata metà della trasmissione che domenica sera su Rai 3, prima serata, presa diretta, potrete vedere la trasmissione di Riccardo Iacona e della sua squadra, e stiamo parlando del caso dei malati di epatite C, circa 10.000 morti in Italia, molte molte migliaia di ammalati, ma il problema è che il costo del farmaco brevettato dalla multinazionale americana è così elevato, stiamo parlando di migliaia e migliaia di euro per trattamento, che è possibile acquisirlo e quindi somministrarlo solo a un numero ristretto di ammalati, e questo è una cosa che manda in crisi la generalità dell'offerta che deve essere fatta universale da parte del Servizio Sanitario Nazionale. È con noi Danilo Procacciante di Presa Diretta, è con noi Ivan Gardini che è il presidente dell'associazione Onlus EPACI. Sentirei ancora un paio di telefonate per tornare ai nostri ospiti. Andiamo sulla linea 3, sulla linea 3, quindi in questo caso dico solo la città. Catania, Sì, pronto? Mi sente? buonasera, Buonasera, buonasera a tutti quanti, sì. buonasera. Allora, Io, sì. dica, dica. Io sono un Ah. medico e fortunatamente mi occupo di epatite C, nel senso che facendo il radiologo seguiamo e controlliamo ciclicamente i pazienti che vengono mandati dalle malattie infettive e dai reparti di oncologia. 40.000 euro è una cifra veramente importante e qui non entro nel merito dei profili di speculativi che possono esserci, non lo so. Però dobbiamo considerare che un paziente con l'epatite C costa al Sistema Sanitario Nazionale sicuramente nell'arco della sua vita, dal momento in cui Bravo. viene riscontrata Ma è così. l'epatite C, al momento in cui poi sfortunatamente muore, ma moriamo tutti quanti, ma questi pazienti costano veramente molto di più di Quindi posso 40.000 fare una euro. domanda? Siccome era il mio stesso dubbio, e la ringrazio infinitamente di portarci la sua esperienza professionale nel dirlo. Ma da questo punto di vista, il Ministero e l'AIFA, ma il Ministero, cioè quello che decide sulla dotazione finanziaria, non si fa un calcolo attuariale comparato in base al quale in realtà dovrebbe, tra virgolette, convenire Ma acquisire molte più dosi? assolutamente sì, io non capisco veramente questa perplessità. Naturalmente cercare di spuntare un prezzo più vantaggioso capisco, ne traiamo beneficio tutti quanti, ma se noi dobbiamo ragionare nei termini di lungo termine e poi consideriamo anche un'altra cosa, togliendo di mezzo l'epatite C, perché con questo farmaco se si riuscisse a trattare tutti i pazienti con l'epatite C li toglieremmo di mezzo veramente in pochi mesi, se non in pochi anni. L'infezione non si propagherebbe più in No, maniera no, così certo. estensiva. Certo, grazie a lei per questa chiamata tecnica. Appunto, andrei sul ascoltatore che è sulla linea 4, dico solo che è da Bologna. Mi sente? Buonasera Giannino. Allora, ci dica. Ah, guardi, io le volevo portare questa testimonianza. Io sono il compagno di una signora che ha questa malattia, la contratta non sa in che maniera, probabilmente per una errata cura dentaria, ormai è da 20 anni, è da 20 anni che lotta con questa malattia che all'inizio era un po' sconosciuta. E lei poi, ha l'accesso al farmaco o no, la sua compagna? Guardi, il farmaco non gli è stato prescritto, perché gli è stato chiaramente detto da un ospedale, da un luminare dell'ospedale di Sant'Orsolo di Bologna, che praticamente lo danno solo ai malati in fase terminale, e che quindi poteva andare appunto in India o addirittura in Germania, se uno è residente, è una cura che danno in forma gratuita. Allora, posso chiedere ai nostri due ospiti un commento di queste statisticamente non rappresentative, però le telefonate ce ne sono un mucchio, tra l'altro, quindi questa è un'emergenza vera, e grazie a Presa Diretta per occuparsene. Allora, cominciamo proprio da Danilo Procaccianti. Qui non mi pare che ci sia molta chiarezza, neanche nella comunità dei malati, tra chi ce l'ha e chi ce n'ho, Danilo. Appunto, il farmaco, ripeto, è concesso solo a casi, insomma. Ma voi al ministero, quando avete chiesto, in base a cosa hanno detto di aver stabilito la cifra per quelle dosi, invece che fare una valutazione che a me sembra abbastanza logica, come quella del medico che ci ha chiamato da Catania? Loro sono partiti dai casi più gravi, hanno detto: per noi i casi più gravi sono 50.000, abbiamo trattato con la multinazionale del farmaco per 50.000 trattamenti. Abbiamo spuntato, questo ci dice il direttore dell'AIFA Luca Pani, il prezzo più basso d'Europa, cioè 750 milioni di euro per un prezzo medio di 15.000 euro. All'inizio era di 40.000 euro a trattamento, adesso il prezzo medio diventa... E però questa è stata la stima che hanno fatto. Ivan Gardini, che cosa vi dicono le autorità nazionali? Cioè, cosa ci si può aspettare? Come possiamo dare una mano perché aumenti la quantità di farmaci a disposizione dei malati? Beh, dare una mano è parlarne diffusamente nei talk show televisivi, perché evidentemente tanto più questo argomento sbarca nei talk show televisivi, tanto più pesa nell'agenda pubblica e politica, sì. Esattamente, e tanto anche perché, vede, bisogna capire questo, è stato introdotto un paradigma curativo pericolosissimo. Certo. E cioè, io ti curo solo se sei grave, quindi sì, sì. Oggi per l'epatite C, domani per il diabete, certo. Dopodomani per l'oncologia, eccetera eccetera. Questo per fare cosa? Per contrastare un caro prezzi. Quindi sì, è terribile, perché ripeto, io sono per il mercato, ma in questi casi il Servizio Sanitario Nazionale serve esattamente a non fare questi ragionamenti, altrimenti a cosa diavolo serve? Io non posso che inchinarmi di fronte al ragionamento che ha appena fatto Ivan Gardini, e rimando tutti voi ascoltatori alla richiesta di approfondimento che ascolterete e vedrete su Rai 3 domenica sera a Presa Diretta con Riccardo Iacona e la sua squadra. E per il resto vi do appuntamento per domani, come tutti i sabati mattina, dalle 10 alle 12, con i conti della Belva, con me, Carlo Alberto Cannavale Caffè, Mario Seminario, per parlare della BCE, di Draghi questa settimana, e per parlare anche dell'autarchia. Torniamo sull'olio, l'autarchia, torniamo a Firenze a voler aprire gli esercizi alimentari solo per i prodotti della Toscana. E questo davvero il nostro futuro? A domani mattina, grazie ai nostri ospiti, e soprattutto parlate di questa emergenza dell'epatite C, perché è sbagliato dare la cura solo ai malati terminali, è inaccettabile.